macchinotti. Bettino, sarai tu. Visto che saltano fuori funghi, eh? Eh beh, ieri cosa stavi facendo? Mi hanno detto le formagelle col computer. E lascialo cantare, che quello è esaurito. E beh, il case si è capito se è utile o no. L'alimentatore non funziona, sa, perché non c'aveva le prese SATA, gli ho messo quello da 500 che c'ho io. Ho già smontato tutto quanto e ripiazzato l'alimentatore. Eia, ho notato, guardando il computer su internet, le offerte, no? Anche quelli più costosi, no? Da 500 euro e qualcosa di più, 500 e tanti, erano tutti con l'alimentatore da 500 watt, non di più, Sì, tanto non consumano più di quel tanto, se l'alimentatore è buono. Eia. Caspita, mettere un alimentatore da 1000 watt vuol dire che c'hai... Che cosa c'hai sotto? Ah, tre processori assieme, i 7. Oh. Va bene. Eccomi qua, mi sono mangiato la zuppa di ceci, che mi piace molto. Ehi, tutti i legumi a me piacciono più o meno, Chi più chi meno. Sono soddisfatto. Adesso mi mangio il secondo. E cosa aspetti il secondo? Cosa aspetti buono? Beh, la verità niente, noi mangiamo piatto unico, però mi sa che mi apro un coso di sardine sott'olio. Ah, io c'ho le olive verdi, ho comprato, più ho comprato i carciofini e i funghi. Eia. Eia. Molto bene, molto bene. Ascolta, come schede hai già guardato qualche misura? Era una TX quella lì, ci sta anche la TX quella grande, quel kit è bello, quel kit, solo che le ventole c'ha piccole. Oh, lo modifico, gli metto le ventole grandi ugualmente. Eia, se si può fare meglio. E beh, il gatto sempre facendo danno sta, adesso lo gonfio di botte. Poveretto. Eia. Oggi non sono uscito, ho riposato un po', senza dormire però. E non si può uscire tutti i giorni, dai. Quando ne ho voglia esco. Ieri era già stata una giornata piena. Oggi no. Vediamo cosa c'è oggi, quanta gente entra. Nel pomeriggio ero, non so se stavo ascoltando, proprio nel pomeriggio, tipo alle 3, ero entrato a 081 lì, col portatile, mi sentiva sia Luca del Monte sia Gio Maria. E già lo credo, sei più in alto di me. Cosa ti volevo dire? Cazzo, a me non mi è... Sono andato in Via Sorsa a prendermi la macchina oggi e non parlo cifra. Oh, ma cos'era? La batteria o altro? La batteria da buttare. Cazzo. Sono entrato in un piccolo, ho giudicato la giudica dura come qua via la macchina, quindi gli ho attaccato il cavo e l'ho fatta partire. Subito sono andato dall'elettrauto a fare la diagnosi della batteria, che c'è uno strumento bello antroso, ma controllato tutto, no, era buttare questa, e me l'ho dovuta cambiare. Oh, Zanca! E quanto ti è durata? Ce l'avevo 5 anni quella, una 70 ampere era, perché la mia è diesel e vuole grossa la batteria. Ehi, 5 anni, a voglia se si è ripagata. Ma io mi ricordo ai tempi di nonno, le batterie ti dimenticavi di averle, duravano roba di, non so, 10 anni se durassero, ma te le dimenticavi proprio. Adesso più di 3 anni non durano, a meno che proprio non siano marche buone. A me mi aveva messo una Magneti Marelli. Coso mi, come si chiama? Il meccanico Alfa, che era in via di Sicilia prima. come ti si chiama, non mi viene il cognome. Giussetto quello si chiama. E sono buone, le Fiam sono buone, ma cazzo, poco, sono le più care. E perché non era cara Magneti Marelli, roba un centinaio di euro, ce n'è un 110 pure, messa da lui, capito? Però sai, Magneti Marelli Fiam dovrebbe essere un uomo, una garanzia, ce l'ho già da 3 anni circa, a febbraio faccio 3 anni. Ma con la manutenzione la tua, la mia era senza manutenzione, se no mi sarebbe durata di più. Bella domanda, non lo so, non lo so. Non mi ricordo nemmeno se hai tappi. Eia, sì, perché certe volte puoi rabboccare un po' l'acqua, ma quando gli elementi sono ricoperti di zolfo, poco da fare c'è. E se non mettevo, ho sempre messo batterie di Ocean, quelle Ursus, quelle che costavano poco, tanto alla fine la durata media è sempre quella. Ho controllato, vabbè, il regolatore funziona, poi anche in revisione te lo controllano, e quindi sto a posto. Bene, bene. Sì, a me me l'ha controllata, ha visto che caricava bene, però come acceso le luci se mette già del 50% subito. Te ne accorgi anche da quello, anche quando è morta, metti le luci, tende a scendersi nella batteria. Eia, non regge il carico, capito? E quanto ti è costata? Due testoni. E sarebbe il testone, non 200, no? E allora? Due testoni. No, vabbè, 200 euro mi sembra veramente una follia per una batteria, Cioè, io ho già 100-110, credo, ma 200 euro per una batteria? Ah, vabbè che la tua però è da 70 ampere, e la mia mi pare sia 50-55, quella è molto più grossa. Poi di marca, così è. E c'ha anche più spunto, perché se no non ce la fai a mettere in moto con una batteria piccola. Capito? Il mio 1900 e poi il diesel è tosto da buon in moto, non è così. Aspetta, avanti Gianni, buonasera. Buonasera, la tariffa la vuoi andare da Cosoga, da Campiglia, 80 euro da 100 watt l'ho pagato. Ma io ero già lì, capito, ero già lì, poi ero stufo, che cazzo, 2 giorni mi è durata la carica, oggi non ha messo torno in moto, io non ce la faccio a camminare, cosa? Ha giubilato, come ti raggiungo in moto, subito all'elettrauto, mi ho fatto fare la diagnosi e tutto del coso, della batteria, infatti l'ho buttata all'ecocentro perché lui ha detto mia all'ecocentro la devi buttare, a me non me ne darà in occhi, se no ti vado nei bagami di usare. E dove sei andato? Da Pier Luigi sono andato, che è un amico. L'ha buttato, io lo credo che ti l'ha fatta a baga così, è un ladrone quello. Oh, yeah. E poco ci marcia, ma no, io non ci vado più da lui, mi spiace. Mi ha fatto pagare, me l'ha fatto pagare 120 euro una volta la batteria, io ho messo una superiore, cazzo, con 80 euro me ne sono uscito. E mi ha detto la garanzia di 2 anni, se ti esprimo di 2 anni, entro 2 anni ti fa difetto, tolgono quella e ti mettono l'altra. Ce la devi buttare. Capito? Come supera la garanzia, la batteria non serve più. Adesso durano così, io ce l'avevo 5 anni quella, la batteria, da 80 ampere. E mi è durata a zincanni gli argomenti, boh. Io 9 anni ce l'avevo quella della Opel, ma non ne fanno più così, oh. Oh, che ti durano 2-3 anni, non di più, mica. Poi si spaccano, non servono, sono fatte apposta. Ma l'ho comprata a Pierluigi, no, l'ho comprata e me l'ho piazzata io. A chi c'è, mo so, così li devi pagare pure la manopera, chi tu, chi dato. Ti ho pagato la cosa per controllarmi, abbiamo detto se era buona la batteria. A chi se era buona, non la risambattano. Costano così, quelle lì, cazzo. Quanto ti ha preso per farti il coso, il test? 15 euro. E vedi, l'altro, quello dove vado io, Lecconci, non ti fa pagare nulla per fare il test. Te lo fai, non ti fa pagare nulla. No, ma lui mi ha controllato lo spunto, tutto quanto, con uno strumento speciale me l'ha fatto. Non con un test normale, no. Ma ha controllato a vedere la carica di l'alternatore e tutto. Ci possono essere tante cose, ma magari la batteria non c'entra un cazzo e non te la sta caricando, capito là? Ha controllato tutto, infatti ce ne siamo accorti subito, perché come accendi le luci, mi ha detto, ha già acceso le luci e se ne farà da 50 battenti, buttala via, mi ha detto, vai in un supermercato e te la compri, tanto più di quel tanto non ti dura, non mi ha detto. E dove l'hai comprata? Lì da coso, da Auchan. Aspetta, 200 euro da Auchan. Vabbè, che mi hai detto che è una batteria particolare, con molti ampere, con molto spunto. E la marca, cos'hai detto? Fiam, no? Non me la ricordo la marca, è Celestina la batteria. Ti sto dicendo che devi avere un bel di spunto, perché sennò non parte con quelle delle macchine a benzina, la mia. Con quelle sono 55 ampere, 45, quelle a la metà praticamente. Non ce la fa a girare il motorino, me. La mia 100 ampere, l'ho pagata 80 euro da cosa capisci. In più me l'ha piazzata e mi ha preso la batteria vecchia senza farmi pagare nulla. No, io la mia l'ho buttata all'ecocentro. Perché che dici, mi ha detto, no, non me ne lasciare a me. Vai all'ecocentro e la butti via. E se no ti vai a pagare pure pagissimo, non ho compreso. Perché a loro li fanno pagare, mi servono a consegnare le batterie. Lo so. E a due passi era da chimica. Prima me l'ha dovuto abbiattare, da poi l'ha dovuto abbiattare, la vecchia me l'ha dovuto nel cofano e si era giù, e sto andando all'ecocentro e si era giù a patta. Me l'ho piazzata io, se non mi toccava pagare. Lui le sue, allora sai quanto le vende, mamma mia, vende quelle Fiam che costano un patrimonio, sono le più care quelle che c'ha lui, cioè è tu di farsi pagare più cari. Lui le compra in via Sorso da coso, da Faenza, e poi le rivende e si fa anche lo sgobbo, ma di brutto però ti fa di pagare, ma non compra più lo sgobbo che si fa dietro, già è l'offici, lui, io invece lì vado da Cappelli, te la tolgono, te la mettono, ti prendono la vecchia, non ti danno nessun problema e costano poco. Di garanzia, dopo due anni se ti parte come parte quella lì, dopo due anni parte anche la tua che ha pagato 100 e 200 euro, che mi sembra te l'hanno fatta pagare proprio un bei soldi, eh. Oh Gianni, Pierluigi dov'è? Via Montello. Ah, quello che avete indicato a me, sì, per quella storia dei vetri elettrici, no? Che mi ha detto, devi andare all'Opel e comprare il comando dei vetri elettrici. Non è che mi ha detto, lasciamela, allora sono andato, me la sono piazzato io, e ha funzionato benissimo, non c'era né fusibile, bruciato né niente. A me me l'ha controllata subito, anche se, perché è un amico mio, anche se stava facendo una Citroen che lo stava facendo diventare matto. Cazzo, non vera rogo di girati diventano cofano di sta macchina, peggio della mia, mai ne prenderò Citroen, cazzo, beve un pezzo, 1700 euro, baccaglino so cosa, ugna marina, cudia. Eia, no, a me non mi conosce invece, io sono andato la prima volta, non mi conosce, a me è dispiaciuto molto di quell'elettrauto morto, quello in via Catalochino, quello era molto... Sì, guarda, c'ho da fare, lasciamela, già te la pozzo. Era un bel così, me. Oh già, quello che era a pesca, come si chiamava? Ho capito che stai dicendo, ma non lo conoscevo, so che c'era lì, ma non lo conoscevo. E vabbè, purtroppo, e sa che è morto pescando, così è. Eia, va vabbè, c'erano varie voci, chi ha detto che è caduto sulle rocce, ma dicono che è caduto perché gli è venuto una specie di ictus, di ischemia, è caduto, non sono riusciti a prenderlo, insomma, poveraccio. Capelli lunghi, no, un po' di piccetto, molto alla mano, molto alla mano. Vabbè, pare avesse un cognome tipo... Oh, Natali, te lo ricordi? No, non me lo ricordo adesso. Comunque Pierluigi... Però col cagazzo 15 euro, subito. Non me lo ricordo, Elio si chiamava. Ho capito, mi hanno detto te la do io la batteria, mi dai tot e te la piazzo io e tutto, invece no, ma vai al supermercato, che se no paghi sta macchina, questa non vedi le batterie, ti poni così e così, perché sono batterie specifiche, capito? E costa non me per quello, poi ne ha una sola la mia, ci sono macchine che ne hanno due batterie, perché uno non gli basta per mettere in moto. Eia, eia, mi dicono in regia che si chiamava Elio, questo morto, aveva un cognome tipo Unali, Onali, una cosa del genere forse, ma quello dico, quello nego, poveretto, mi è dispiaciuto molto. E se no non era bravo come l'hai tratto il fratello di Franco, quello che è morto, il fratello di Franco California, cazzo, visto era un signore elettrauto, che su si ritirava tutti i rifiuti dalla cabina di Ugami e rifazia l'impianto nuovo. Oh, poi volendo elettrauto ce ne sono anche in zona, no? Ma hanno delle facce da cazzo, diciamo. Meglio andare lontano. Va bene. Oh, entra se vuoi entrare, aiù. Ma te la senti? No, no, vi sto ascoltando, non ho voglia, rimango in ascolto. Deia. Hai fatto qualche controllo? Sei andato dal motorino, no? Ancora? No, no, no, non c'ho niente, no. Sto a posto. Ma non ho voglia io di parlare. No. Sono moscio moscio. Queste pastiglie mi stanno buttando a terra, capito? Ma non ho voglia, vi sto ascoltando, va. Ti prendete. Ma cosa stai pigliando? Antibiotici qua? Yeah. Per quello che ti butta a terra. Io voglio, oggi c'è bisogno, non ho voglia. Io vado alla vicina alle 8:30 per mangiare e mettermi a letto. Vitamine prendendone stai? Sì, prendendo protezione, tutto. Ma so che modo, non ho voglia di parlare davvero. Fate voi, sì, già vi ascolto, dai. Cazzo, andava bene. Cazzo, al comune c'avevo una Toyota io che poi gliel'hanno rubata, chissà come cazzo hanno fatto. Guidavo una Toyota io e ne aveva due batterie, cazzo. A chi una non ribattava, una a una parte e una all'altra. Da questa epilaggio filmata giusto bisogna cambiare le batterie qua, perché stanno perdendo acido ed è pericoloso. E il ruttore su ferma la macchina. Ma fatto. Sono andati all'ATP e mi l'hanno arrivato a Giamma. Tutte e due. Siccome non sono... Ah, l'ATP hai detto? Noi le cambiavamo all'ATP, le cose, le macchine, anche quelle dei vigili urbani, tutte quelle del comune le portano all'ATP a fare, c'hanno l'elettrauto, c'hanno tutto lì all'ATP. I camion si li non si racconta niente. Eia, no. Non so perché mi è venuto a mente un distributore TP ATP, no? Ho sbagliato io. Oh, che Claudio, ti senti molle? Beh, sappi che io sono ogni giorno così, vivo così, capito? Quindi figurati come sono messo. E vabbè, gli antibiotici poi sì, ti buttano molto giù. Mamma mia, e per quanto lo devi prendere ancora? Tutta la settimana. Vabbè, è necessario, se è necessario si prende. Va bene, vai Gianni, dai, riprendi. Scusate, io andrei... Ciao Claudio. Andrea, mangiarne il sciacquotto, dai, riprendete voi. Ha mangiato il sciacquotto, non stavi riprendi. Ma dove è poi spalato qui adesso, che non lo so. A Canica è, dove vuoi che sia, a Canica è il deposito dell'ATP, dove sono i tram, lì portano tutte le macchine, il comune, i vigili urbani, tutti, perché c'hanno le officine lì, no, c'hanno il meccanico, l'elettrauto, la gommista, tutto. Noi manco una gomma potevamo cambiare, lo sai. Ah, ho capito, dove vai a farti gli abbonamenti, quella roba lì? Ma non lo sapevo che ci fossero anche meccanici, roba del genere. Sono della TP, siccome è una consociata del comune, e allora a cazzo portano le macchine lì, anche i vigili urbani lì, la minima cosa, perché tu manco una gomma puoi toccare, nulla. Come succede qualcosa, subito alla TP. E se si ferma vengono loro e te la prendono loro la macchina. Ma io pensavo che lì ci fossero solo gli uffici, capito? Niente, non sapevo che ci fossero gli uffici. E andava bene. E vabbè, prima erano in via 25 aprile, quello già me lo ricordo, però poi non sapevo dove l'avevano trasferito. Poi gli... Ma dai, io trovo solo una vita che non li piglio più. E beh, già lo credo. Lì appena dopo il passaggio a livello c'è l'ATP. Come guardia giurata, mio nipote lì si lavora. Quando sequestrano la macchina col coso, col carro attrezzi, devi andare lì a ritirarla, ti fai pagare la multa a minibusi. Ah, quindi di lì il deposito e anche delle macchine che sequestrano, che ritirano là. E allora, tutti in chi vi bussano, non hai compreso? Cazzo, lì c'è tutto. Cazzo, in chi vi servi un elettrauto, e c'hanno l'elettrauto. Gli serve il gommista, e c'hanno il gommista, tutto vale. Gli serve un meccanico, pure un meccanico. A me una volta mi si è rotta la cinghia. Andrò Manzana a pigliarla, la macchina, prum, e la pugna è morto. Cosa è successo? Che cosa non è successo? E sono giustizi la TP. Il tirano è dovuto buttare, perché era la cinghia della distribuzione che si era rotta. Meno male che non ha messo in moto la macchina. Se no mi si era rotto il camioncino. Cazzo. Ti butta valvole, tu cazzo, ti fa di barrendere valvole, è un casino. Succede. Cilindri, tu cazzo, grazie. Ma si è rotta così lì. Come sono andato a mettere in moto, l'indomani non ha messo in moto il camioncino. Era posteggiata dall'autoparco la macchina. Cazzo. Quando lavoravo lì all'autoparco, cazzo, giusto. Sono giunti che si lati P e mi hanno chiamato pure la cinghia di distribuzione, non sono usati. Dopo sono andato a ritirarla lì alla TP. Vabbè. A Gianni, a quel mio amico, gli ho sceso così dalla marea, è andato alla Fiat e gli ha detto che vuole cambiare la cinghia di distribuzione, erano 4 km e ancora non è da fare, è a 120 che si cambia. Struttori ha fatto 85, ma voglio ancora fare i chilometri. Quando ne hai 110 così ce la porti. Se la 120 comunque va bene. Oh, cazzo, l'ha portata la settimana prima, il lunedì mi telefona, già sono in via di Sicilia vicino alla polizia, cazzo la macchina non mi parte, mi fa un rumore strano, non è che me la puoi trainare, sto venendo, vabbè. Sono andato, ho provato a metterla in moto, come sento il rumore, ho detto, boh, che non che ha buttato, poi volevo che si faccia la cinghia di distribuzione, ma se l'ho portata la Fiat in casa la settimana scorsa, venerdì l'ho portata, oggi è lunedì, cazzo dice, si è rotta la cinghia, è tornato là, l'abbiamo portata via la Fiat, e si sono negati che lui era andato. Ascolta, io ti dico una cosa, dicono che a 120.000, no? Io la mia l'ho fatta cambiare a 80.000, a 80.000 era già rotta, si stava rompendo la cinghia di distribuzione, e a 80.000 piglia la possibilità sempre, capito? Adesso come arrivo a 160.000, forse anche prima la faccio cambiare, ma lo sicuro no? E anche io faccio così la tariffa. Anche io, questa volta mi racconta e mi ha detto, ma questa CIA i chilometri suoi fatti li ha. E ha detto, certo che li ha fatto 80.000, e se non va nuovo, qua non c'ha una sbagliatura, niente, io gliela cambio lo stesso, però è nuovo. Se l'ha cambiata, però dice che era bella la cosa, però dice non era da cambiare ancora. Non so, io la cambio sempre un po' prima, 80.000, 75, 80.000 km la cambio. Sempre così ho fatto, Natali, già tre ne ho cambiato. Io buru, ti gioco di Zelli, Gianni, la mia era già rompendosi la cinghia. Perché l'ho vista io quando l'ha tolta. E hai ragione, però non vari chilometri di cavata. E già ma la due appositimi aggiunto. Come ti ne ha cavata era già rompendosi. E da chi stai andando di meccanico? Da ognuno quelli che mi capita, non ne ho meccanico fisso io. È proprio quello dove sto andando io adesso, Franco. Quello lì mi ha sempre soddisfatto il lavoro. Anche Alessandro è bravo, il fratello di Adriano. Quello è meccanico e molti lavori me li ha fatti lui. E mi piglia pure un po'. È bravo questo. E dove c'è l'ufficio? Sotto il ponte. Ah. No, io praticamente vado di lì da Franco, è quello che mi ha si è accorto che avevano messo i freni al rovescio, che gli si imbrugliono i gas, guarda, voleva pigliare e ci viene dall'ufficio di lui. E l'andato mi aveva fatto zurrare di là. Tu a chi non mi ha dato rete, se no andavo io e ti faccio zurrare di là. Cazzo, ma buffonetti, diciamo, che ti piace, a parte i freni sono una cosa delicatissima. Cazzo, mi piace di bene a rinverso, ma macchi, diciamo. Mi ha detto, non sei il primo mica che viene, con i freni girati così, piazzati al rovescio. E se è successo, mi pare che è andato proprio con l'officina lì, questo che è venuto l'altra volta lo stesso. Poi dice, quando la gente non le sa fare le cose, perché si mette a fare? Faccia l'elettrauto, intanto sa fare solo quello, magari l'elettrauto lo sa fare bene, ma cazzo, in che tipo la farò beccare invece non l'hai mai fatto? Cazzo, come sono uscito all'officina, te l'ho detto, Natali, io sto tornando indietro perché la macchina ha un freno. Dice, l'assestamento, manco l'assestamento, che quando me la prendere era su piccino, i freni, sì, l'assestamento c'era, ma frenava la macchina, non era così, no, era un po' più lunga la frenata, ma frenava, chissà, cazzo, si fa la turbinaria, poi tirava un freno a mano, non funzionava. Allora, un funente, sì, no, no, cazzo, chi sei un pericolo pubblico, non bisogna andare. Ti mancano i ribelli nella bigivona. Ma infatti no, è un po' acqua qua. Magari come elettrauto è bravo, ma come meccanico, dopo gli ho provato la macchina per fare il motorino, cazzo, mi ha aggiunto olio, in caso di grazie di aggiungere l'olio. Io li metto 72.000 grammi su l'uso che vuole la Volkswagen. No, scusi, ma io metto 72.000, a me non li ho mischiato, non mi piace. Che ne avevo fatto la panterra, poi ne ho senti 2.000 e no che tu e non te ne pago più. Io non ne mischiano, io metto solo sinti 2.000 e tutte le macchine che ho avuto sempre sinti 2.000 ho messo, anche quelle della Fiat, sempre quello, anche se le da Opel mi hanno detto che non c'è bisogno di un olio così forte, che quello si mette in macchine che scaldano molto, cazzo, anche l'Opel lo scalda, da 90 gradi, cazzo, come minimo. Ma non è un motore, diciamo così, spinto come le Alfa Romeo, capito? Però se tu metti senti 2.000 è più protetto il motore, capito? Natali, la compressione con quell'olio lì è un'altra cosa, rifà la fascia. Se tu le fasce consumate, io mi ricordo che nel 127 avevo le fasce consumate, ti mettevo senti 2.000 ed era un olio che cazzo ti faceva da compressione proprio, cazzo la compressione si sentiva, poi mettevo l'altro olio, cazzo si riparava la macchina. Ma sicuramente ti uso io, che quello è per motori spinti, adesso mi sembra il Selenia mettono anche all'Alfa Romeo, ma è a livello di sinti 2000. Sì, Selenia è lo stesso come sinti 2000. Mi pare che Concetta ti ha chiamato. Oia, cosa vuoi ti dica? Oggi mi ha meccusato me. Oh, la macchina macchina mia era due giorni che non faceva più quel difetto, lo sai. Ero già contento, sta, io mi ho fatto una grande a barandare, che cazzo me l'ha contata. E invece stasera l'ho presa di nuovo il difetto, mi ha fatto. Ma non ammare. Ma non sarà che falso contatto, io sono Vincenzi, giacca. Ma è, bisognerebbe sapere dove sono i capi che vanno alla centralina. Staccarli, mettere il CRC all'interno e pure riattaccarli, quello bisogna fare. Franco mi ha detto che a volte prendono umido, e quello lì che li fa andare in tilt. Poi dipende, tante volte gli amplificatori, le cose, rovinano la memoria della centralina, bisognerebbe, mi ha detto che me l'ha ritornata tutta a memorizzare la centralina, però detto, bisogna che ci sia quel computer della Opel. L'ho portata alla Opel e mi hanno detto praticamente che dipende dal pedale dell'acceleratore, quello lo sapevamo anche da Franco che disegnava il pedale dell'acceleratore però non insegna il vero motivo. Allora gli ha cambiato il pedale, l'abbiamo preso a Ferrubicchio a seconda mano, l'abbiamo cambiato, fa lo stesso difetto. L'hanno fatto, come gli aveva messo il pedale nuovo, ecco la seconda mano l'abbiamo preso, non l'ha fatto per un po' di tempo, poi di nuovo si è ripreso il difetto. Sicuramente dice che ci sono dei sensori che vanno dal pedale dell'acceleratore alla centralina, perché il pedale dell'acceleratore è elettronico. Questi sensori, se si sballano uno o l'altro, non te li segnala, ti segnala solo difetto al pedale dell'acceleratore. Quindi tu devi sgamare quale sia l'uno o l'altro, uno costa 80 euro e l'altro costa più di 250 euro. E li vuole cambiare tutti e due alla Opel per essere sicuri. E ho detto, cazzo devo dirmi, non hai giù un oia. Elettronica stanno rompendo le palle, stanno rompendo. E la ditta mia non ha preso il furgoncino elettrico, l'ha fatta la cosa, ui, secondo me non è male, non senti il motore, infatti a quel mio collega che lo guida lo chiamo silenzioso, cazzo, prima almeno quando arrivava sentivo il motore, dice, oh, mi è arrivato un momento, poi c'è, ma cazzo, ma come si intende? E ha detto che cammina, tutto quello che vuoi, ma non c'è autonomia, è arrivato a Stentino, è ritornato, cazzo, era già la batteria mezzo scarica. Oia, chi si ripetasse i problemi, Si mira umidità, oi, questo è, lo sai cos'è, l'hanno preso perché non si paga bollo per 5 anni, capito Natali, ma io l'avrei preso ibrido, quello ibrido per 3 anni non paga il bollo, ed è a benzina e anche elettrico, secondo come vuoi tu lo puoi fare andare. Aspetta, ma... Nissan è... Burp. Capito Marco, furgone elettrico. Eia, è bella silenziosa la macchina elettrica, no? Sembra che vada così, ad aria. È uno spunto ottimo, perché il motore elettrico è uno spunto ottimo. Solo che ancora sono un po' sperimentali, non lo so, non mi fiderei tanto, più di tanto me. Marco, cosa spunto ultimo? Di base di golfo che c'è la macchina, non me l'ha fatta provare il mio collega, ma stavo a provare. Uno si accende, devi premere il freno e poi premere un pulsante, si accende così. Poi prendi, abbassi il freno come la macchina normale, c'è freno e acceleratore, vai a accelerare e ti parte di colpo, cazzo. Bisogna sostare, no, non è per me che sia cosa, sto figlio a dire. Ma se acceleri piano, spunta piano. Il corpo spunta, ho accelerato piano piano, io per piede ce l'ho, cazzo, ho guidato una vita, non è che... Però non è macchina che piace a me, a parte tutto elettronico, tutto a tastini, tutto babali. Beh, un giorno saranno tutte auto elettriche, per non inquinare più il pianeta. Te immagini, vai al distributore anziché la pompa della benzina, una pompa che ti dà energia elettrica. Sì, il problema è che devi aspettare come minimo un'oretta che carichi. Stanotte ci vuole per caricare, noi ce l'abbiamo giù in garage, ci abbiamo una presa, attacchiamo una presa in garage e via. Vabbè, però a me non mi dà affidamento, come ha detto Natalino, una macchina del genere prende un l'umidità, che c'è sono protette, qua chi c'è che ti piace, la roba elettronica con l'umidità si rovina. Eia, c'è troppa roba elettronica già nelle macchine a benzina. E dici, insomma, nelle macchine moderne c'è già troppa elettronica e rompe le scatole, tra centraline e roba del genere, te le raccomando. Mi a me la raccomando, che ha speso 1200 euro per cambiarla e dopo 2 anni mi saranno problemi. Oh, di nuovo, mamma mia, ma tu avevi preventivato in futuro di cambiarla quella, o la vuoi tenere un altro po'? Non è che la ottenere, sono costretto a tenerla, non la posso cambiare adesso ancora. Ehi, ehi, noi finché non esplode la teniamo, proprio si deve disintegrare, perché sai che soldi, anzi anche usate, è un problema comprarla per noi. Speriamo che duri 1000 anni quella macchina. E poi usato non sai mai quello che trucchi, se no l'avrei presa anche una usata, però a parte che a me piace una macchina che abbia 0 km, perché io la macchina la sfrutto, viaggio, faccio, quindi mi serve una macchina attiva che debba fare ancora i chilometri, no che cazzo che abbia già i chilometri, infatti dopo un po' si rovina. Mi darebbero gli stessi problemi di questa, anzi questa qua problemi non me ne ha, perché di motore è buonissima, a me Natalino già la conosce la macchina mia, come motore va benissimo, è solo che ha questo problema che tu a volte vai a accelerare, non prende l'accelerata e si accende con la spia. Sono andato a farla controllare e mi hanno detto che praticamente dall'acceleratore, gli ho cambiato il pedale dell'acceleratore che è elettronico, gli ha pulito tutti i pezzi, tutto quanto, l'ha attaccato e non lo faceva più. Dopo un po' di tempo l'ha di nuovo rifatto. Ah, pure elettronico l'acceleratore, te l'ho detto, troppa elettronica, è bello col cavetto, che acceleri, il cavetto tira, apre gli iniettori. È veramente... tutta questa roba elettrica, elettronica da rogne, soffre l'umidità e tutto il resto, poi vai a cambiarle e sono dolori, bene, male. Ho fatto un altro difetto, che la macchina non camminava, tu acceleravi la macchina, però ogni cento lo faceva. E cos'era? Era praticamente la bobina, quella che c'è sulle candele, quella lunga che va a fare da tappo alle candele, quella lì è praticamente in corto, l'ha provata, l'entrauto, ha provato a cambiare tutte le candele, intanto ho speso 50 euro in più per le candele, poi ha messo quella lì, le candele non era quello lì in corto, pensavo che ci fosse una candela in corto, invece era quella, mi ha cambiato quella, ha dato 200 euro, cazzo, è una cosa allucinante, sto dicendo che è una cosa che non si crede. Eia, Natalino, vai tu che avete parlato assieme all'inizio. Natalino è morto. Non parli. Ti devo far squillare il telefono tutta la notte. Dai. Eia. Però la macchina più difettosa del mondo era la 126 bis, la Fiat 126 bis. Ma questo motore coricato surriscaldava, bruciava la testata, cattiva circolazione dell'acqua, bisogna modificare la circolazione dell'acqua perché era troppo strozzata. Poi si mangiava praticamente pompa C come niente, poi addirittura c'era la stina più corta, aveva consumato addirittura la stina, cosa che mi pare anche strana, era più corta, visibilmente più corta, la stina che comandava la pompa AC. Un incubo di macchina era, guarda. L'hai avuta? Mamma è stata la prima che ha preso lei, la 126C. Con quel motore a sogliola ridicolo, il peggior motore mai fatto dalla Fiat, purtroppo ogni tanto bisogna rifare la testata, per carità, lasciamo perdere. Era molto meglio la vecchia 126 con il motore ad aria, capito? Fatta in Polonia poi, dalla FSM. Vabbè, quello non vuol dire niente, tanto il motore è sempre della Fiat. Io invece ho avuto la macchina più ben riuscito, il motore della Fiat. La 1 Fire consumava poco, non dava problemi, ed era una macchina che era veramente qualcosa in intermedio, e poi la Opel. Sì, la Opel fa bel motore, bello, bello. Il color verdone metallizzato un po', era bella, si guidava bene quella 1, veramente. L'aveva presa Olbia. Olbia, da un concessionario Olbia l'aveva presa, ovviamente di seconda mano, Che lei non a comprare macchine nuove, no. Capito? Bisognava sbancarsi. E comunque per tanto tempo è andata bene. Io invece ho avuto la 1 verde oliva, il vecchio modello. L'avevo pagata così poco, poi mi è durata 3 anni. Dopodiché non circolava bene l'olio, si accendeva la spia, allora via, savoni. O Marchetto, adesso non mi ricordo, è rotamata. Vediamo il record di quanto ne ha avuto, per fare 12 di macchina. Aspetta, no, mamma l'ha avuta da tardi, perché nonno gli aveva regalato alla laurea delle ridicole Fiat 500 vecchie, no? Che magari, sai cos'è il problema? È che andavano male, erano proprio motori baccati, erano proprio bidoni, mi hanno tirato dei bidoni a mio nonno, erano proprio delle inchiappettate quelle macchine, mi erano date col motore difettoso, eccetera. E quindi mamma si è potuta permettere una macchina, o meglio, prima ci portava nonno, eravamo proprio come fosse il padre, nonno. Al mare andavamo con lui, a scuola mi prendeva lui, mi portava lui quando ero piccolo. Quindi quando poi nonno non c'è stato più, ha cominciato, no, anche prima se l'ha presa, e pare se l'ha presa nel 90, 90 o 91, una cosa del genere, la 126. Yeah. Io come prima macchina ho avuto 5,95 Giannini, quella lì l'avevo presa a seconda mano, l'avevo presa da uno che faceva le gare, tanto faceva 130 nella salita di Marini con la macchina. Un giorno sono andato in un'officina che c'era, adesso non so se c'è più, in Viale Portottone, però si scende e va giù, no? Scende e va giù, e visto dove c'è quello delle moto, c'è una traversina più avanti, si scende e va giù e c'era un elettrauto. Sono andato perché mi stava facendo difetto la bobina e devo cambiare i cavetti. E c'avevo una fotografia grande grande in questa macchina, accanto guardo la targa che faceva le gare, non c'era la caputa da scocche a quadrati, le strisce eccetera eccetera, guardo questa è la targa della macchina mia, 52 411 era targata, me lo ricordo ancora. Beh, fatto sta che ho detto, ma questa macchina è quella che facevo le gare, io me la ricordo perché le cose elettriche gliele facevo io, è quella che c'aveva, mi ha detto la persona come si chiamava che gareggiava, cazzo c'ha un motore questa macchina, ho detto sì ma fai 9 al litro però. Ah, cioè ne trubava ma consumava pure. Al limite già, se uno vuol pigliare una macchina usata ma praticamente nuova, una macchina aziendale che ha poche, magari poche centinaia di chilometri proprio. Certo, non usata forte, se no è molto sfruttata, è una macchina aziendale. Ma tu, se dovessi prendere la macchina, no? Se avessi già i soldi da parte, cioè se avessi la possibilità di comprarla oggi o domani stesso, cosa sceglieresti? Ah, io devo scegliere una macchina che sia comoda e che abbia il posto per mettere il cane, perché devo mettere la gabbia del cane, quindi prenderei uno Station Wagon, oppure tipo la Dacia Duster, roba così. Pigliati un Doblò. E anche quello ho pensato, perché? Guarda che bello, me non te lo sto dicendo, il Doblò quello a vetri però Tanto a me non mi interessa per la famiglia, Claudio, posso prendere anche il Doblò c'è anche lo spazio dietro, si deve caricare la spesa per caricare, c'ha tutte le comodità, no ma uno Station Wagon, sono andato a guardare, mi stavo per prendere quella della la Dacia, quella Station Wagon, però non c'aveva ruota di scorta. Il kit costava la marca di soldi. La ruota di scorta costava 350 euro. Le ruote che montava erano fine fine. Detto, ma allora ragazzi, qui tengo chissà che faccio, è meglio di quella di ne manca Baragò. E per arrivare ci volevano 3 mesi per fare una cosa del genere, ma ne ha necessità, ma ho detto sì. E ci volevano almeno 3 mesi per arrivare. E poi di ratta, non si ribabita, 330 euro di ratta al mese. Lascia quello che stai dicendo, lascia perdere già, lascia perdere Giuditto, il gruppo Renault, ma sono macchine coreane, la visita dura, lascia, ma prenditi un'altra macchina, ce ne sono belle aziendali, ti ho detto, macchine italiane, Station Vega, lascia pigli la Dacia, non le vendendo nulla, lo farò niente di chi si Dacia, ma cosa sta vendendo, bah. Vabbè, comunque già ce n'è di macchine da Station Wagon da comprare. Va bene, va bene. Tu invece Marco cosa ti compri? Il ciclino ti compri. Io mi posso comprare al massimo un triciclo per bambini piccoli e boh. Mia zia invece ha una Dacia Sandero color, un color particolare, ma alla fine il motore non è altro che un motore Renault Clio, è mio, Claudio, non lo so se sono davvero coreane, ma il motore di una Renault Clio non è che ci siano motori strani, Certo, l'altra non so come, quella che ha detto Gianni, non lo so che motore abbia, ma ne ho visto in giro di Dacia, ne ho visto più di una, i vari colori pure. Hanno il motore Renault tutte e quattro, mi sono informato dal venditore. Gruppo Renault, ma comunque sono fatti in Corea, ma non sono macchine da comprare, bah. Vabbè, poi ognuno per risparmiare, costano nulla a goccioli, una gargata a goccioli di macchine. Vabbè, ma io mi avrei preso un'altra Opel già, poi, visto che sei appassionato, è vero che i motori di adesso non sono come quelli di prima, però avrei preso un'altra di quella. Vabbè, no, io quest'anno ancora, vabbè, quest'anno non è mai andato, ma 147 è tutto a posto, e quindi teniamo ancora quella lì, ma il prossimo anno mia figlia la vuole cambiare, non so che macchina vuole prendere. Veda lì, a me non mi riceve più macchina, io ho la mia piccolina, qui domani di nuovo da Roberto, mette le parole nuove, finalmente sono arrivati. Così è finita e mi diverto con quella piccolina, no? Giandallo, qui ho finito di viaggiare. Mi avete in stoppa, la Dacia è rumena, guasta. Non mi ricordavo, oggi tu coreana, invece è rumena, il gruppo Renault è rumena. Rumena, macchina da zingari. Ma chi quel troioso di Stefano c'è? Ciao Stefano. Vai, va, boioso, vai. L'ho subito che ho segnato. L'ha detto Claudio che era coreana, Sì, sì, l'ho detto io che era coreana, ci ho sbagliato, ma è rumena, ragione Stefano, è rumena, mi ricordavo qualcosa, ma mi è uscito coreana. Coreana è la cosa, chissà, la Matis, quella che facevano, dai V, dice coreana, perché dai, ve la consiglio. Pucci pucci. Ah vai, lascia perdere la Dacia. Ciao Stefano, buonasera, nonna Giugana però, rimani in ascolto e dai, sono intervenuto così a fare una battuta. A frappè. Stefano, saluti dalla 50. Aspetta, sì, fortuna che ti sento, ma non aggiungare, va via, dove sei? Avvicinati che stai arrivando un bel basso, dai. Ciao Fortuna, buonasera, ben ascoltato. C'è Gianni, Natalino, Stefano, Marco, non so se ti sentono. Gianni, sentito è Fortunato? No, prova a farlo venire avanti, non ci ho fatto caso. Avanti Fortunato, dov'è Claudio? Aspetta, dove sei Fortunato? Avvicinati perché Gianni non ti sente, è zona Florina Scarzeghe con le zone. Va bene, avvicinati, poi già ti sentono, dai. Ci sentiamo, ciao a tutti, dai, non ne voglio parlare, riprendi ste. Ok, saluti Natalì, ricambiati da 50 e saluti. Saluti a tutti, sono entrato così bruscamente, naso, raso e ponemente. A te Marco Con, brigantino. Eia, eia. Va bene, boh, vabbè, mia zia la usa, non, problemi non è che ne abbia in particolare, solo che la gente è prevenuta sul nome, capito? Siccome non è Fiat, Renault, capito? E, cioè, uno mi ha detto, io non l'avrei mai presa con questo nome, l'avrei presa magari con lo stesso motore ma con il nome Renault, vabbè. Ma contenti loro. Guarda, la macchina ce l'ha un amico mio e va benissimo, mi ha detto che va molto bene, che non ha dato mai problemi, ce l'ha già 3 anni quasi e mi va bene. Eia, basta che la carrozzeria sia abbastanza zincata, che non si arrugginisca dopo poco tempo e che il motore sia, che il motore vada bene, insomma. Eia. A me piace la panda rifatta, primo modello oppure ultimo modello, non quello intermedio, o il primo modello rifatto, moderno o l'ultimo modello. Ma sono macchinette, dai, io ci sto male con le macchine, devo avere un posto comodo, devo star comodo guidando, non mi piace a me con le macchine che ci stai tutte scatolate. Allora sai qual è bella la macchina? Anche seduto perché ce l'ha il figlio di Concetti, che l'ha comprata da poco, la Opel Mokka, un sogno. Ehi, Natali, ma la Opel, io che stando al mio meccanico, metto, comprale tutte tranne la Opel, perché stanno difettando quelle macchine, perché stanno mettendo motori Isuzu e Fiat, quindi stanno difettando tutte. Comprale tutte le macchine tranne le Opel, perché qua tutti quelli che vengono qua sono Opel con i difetti. È arrivata direttamente dalla Germania quella di Lenz. Aspetta, non so che motore abbia, eppure quando viene gli apro il cofano e guardo a vedere che motore monta quella macchina. Dice che stanno montando i motori Isuzu e poi quelli Fiat. Dice comunque diverse case, secondo il modello sono diverse case, non sono più motori della General Motors come erano prima. Quelli General Motors invece era tanto di cappello, quello che c'è, però gli altri non si vedranno. E come mai questa scelta economica? Si sono amalgamati un po' con la Fiat, con questa Isuzu, eccetera, eccetera, e tutto per questioni sempre finanziarie, li fanno pagare di meno i motori, magari. Io se compro una Opel magari è per avere un motore Opel, non per avere la buccia Opel e il motore Fiat. Se andate a trovare, comprare Fiat direttamente, magari la paghi anche meno, boh. No, non si viene avanti. Non sono i motori come te chi sa chi fa Gianni. Chi su di Gianni già è Opel a vedere uno motore. Se tiene la moto, se... Rosolino. C'è scritto, mi pare, sul libretto, c'era la moto Adam Opel, il motore, o il modello o il motore, non mi ricordo, che poi la Opel ha fatto anche la Opel Adam, forse per celebrare questo Adam Opel, non lo so, magari il fondatore della Opel. Non lo so, la mia è Astra Station Wagon Club. Ma c'è scritto, quella di Babbo per esempio era Adam Opel il motore, proprio Opel. Poi ci sono quelle della General Motors, però già erano buoni anche quelli i motori. Quella che facevano prima, le Opel, erano tutti buoni motori. Erano i treni, l'ha detto anche il mio meccanico, prima erano treni motori Opel. Non corriere assai, però su strada lunga sì, ma dopo vanno per le strade per camminare. Però dici, come durata ti facevano chilometri e chilometri, anche quelli a benzina, si dimenticavano di bimassi. A me me l'hanno rovinata quella che c'avevo io, te lo ricordi quella bianca? Quella berlina bianca che c'avevo Opel. Io me ne ricordo anche un'altra che c'avevo il Mondeo, no, Mondeo, come ti volte si chiamava. E boh, mi lamento, se ne ha un casino di mano. Cosa ti volevo dire? Quella Opel l'ho portata al Ferrovecchio camminando. Capito? E a chi mi veniva traccato non avevo più acconto, ma viene facciato tutta la biancata, veramente. Mi si chiudi a Neducci, allora tutta la macchina è defunzionata. Camminando si era giubilata a Ferrovecchio. Ford Mondeo. Eia. Comunque in realtà lì anch'io, a parte gli scherzi, le macchine rotamate le ho sempre portate io a rotamatore, guidando io, solo che c'erano, per esempio la mia, proprio mia, la 1 verde oliva aveva problemi che circolava male l'olio, capito? L'ho sempre portate io, la 500 di nonno l'ho portata io a rotamare, che c'era la carrozzeria che era tutto un buco. Anzi, proprio la carrozzeria era un buco, capito? Un buco unico. E via, va bene. Dai, riprendete. La mia ci aveva, aveva più di 300.000 km, ma non mi ha dato mai un fastidio di troppe. È che mi si sbattevano tutti, ma avevano fatto ultimamente la fiancata, tutta la fiancata a destra. Mi sa che si è buttata a rotamare, ma vaffanculo adesso. Però la macchina camminava tranquilla, guarda, non c'aveva un difetto. E allora perché ti ci avevi su, che te l'ha cambiato ogni tanto? Chi è che ha chiamato sotto? Chi è Fortunato? Chi altro è? Avanti. Sì, Marco, buonasera. Scusate, sempre i miei passaggi molto veloci, d'altronde un tratto di strada molto breve. Siete, mi metto sempre a salutare la ruota, ciao Gianni, e poi l'altro amico non so chi sia. Vai. Natalino Alfa 1. Caspita, Fortunato, sei passato da 0 a un segnale eccellente. Oltre il 9, ottimo. Claudio, se vuoi parlare, mi. Anche qua è 9:10. Fortunato, dove sei Fortunato? Di fronte motorizzazione, di fronte, a fianco, dai. Comunque, buonasera, dai. Mi hai sentito? No, adesso arrivi bene, dai. Poco fa proprio non ti sentivo. Probabilmente in zona nostra. Claudio c'ha la torre, per forza che. Senti a tutti. E in alto, anche qua arriva forte. Ciao Fortunato, buonasera. Ciao Nazari, una buonasera anche a te, dai. Adesso li potete tutti quanti e vi auguro una buona serata, dai. Intanto io per motivi di trabacco devo andare. Buona serata anche a te. Grazie per i saluti. Ciao ciao. Eia, ciao Fortunato, dai, buon proseguimento di serata. Si mette a poco di stoppa. No. Riprendi, Stefano. Riprendo, sono qua, davanti al PC, sto facendo due cosettine. Cioè, stavo facendo, ma tutto a posto. Cappagatto. Aia. A Sassari per molto trattine. Un paio di giorni, cioè qualche giorno già sono qua. Quando vuoi passa a pirati caffè. Eia, grazie. Certamente. Avanti Natale, riprenditi. Allora, quel brigantino di Stefano, che non parli adesso. Vorrei che ti faccia sguillare il telefono, guarda, hai capito? Provaci che ti tiro una fucilata a pallettoni. Hai capito, quello per. Marco, quindi quando la cambiamo sta macchina? Io mai. Non abbiamo la possibilità. Non ancora. Beh, poi finché cammina quella, perché dovremmo cambiarla? Guarda, io le macchine le ho cambiate sempre quando non potevano più circolare proprio. Quando c'erano problemi grossi. Invece qualcuno magari le cambia per gusto, almeno giusto per cambiare la macchina. Mi hanno regalato un cagnolino, mi hanno regalato. C'aveva questa criniera accata e gliel'ho tagliata io perché non mi piaceva questa criniera. Si mangia tutti i cani per ogni volta che li vedo. E sa cosa, non ho capito, non ti sto seguendo Natalia. Che c'ho un cagnolino. E quando me l'hanno dato c'aveva la criniera, però io gliel'ho tagliata perché non mi piaceva. Solo che c'ha il vizio di bronare tutti i cani che trova. Così è. Ma quello che è adesso vuoi dire? Ehi, allora, serva la criniera quando me la... E cos'è, l'accoppiamento tra un cane e un leone? Perché dice che si chiama Felix Leo. Felix Leo. Bene, bene. E invece si chiama come il viso, Kurt. Ah, è Kurt il viso. Cosa va? Come Kurt Cobain, cantante di Nirvana, buon'anima. Visto che esiste il nome. Sì, ma tu da dove l'hanno ripreso l'altalì? Kurt era il cane che c'avevi prima, già lo so, ma da dove l'avevi beccato quel nome? Perché ce l'aveva un Doberman, quel nome. Mi è piaciuto e quando mi avevo preso il fattore tedesco gli ho messo Kurt, perché era corto come nome. Ma è corto, è corto. Ma adesso anche il cane è corto. Oh yeah. E quel pastore tedesco, cazzo, l'era lasciato in campagna. Chi se lo teneva poi? Chi gli dava da mangiare? Cioè? Ah, Angelo l'inquilino, Romagnani già non rimancava. Lo so, però era abituato a te, quella lì. Io dico se ne è morto dei piazzini, cani. Si è malato, è morto così. A 8 anni è morto. Ha durato pochissimo. Ma quei cani lì durano così, Minatani, non ti credere, 8-9 anni. La durata dei cani è quella. Mentre i gatti no, io per dire a Titti ce l'avevo 19 anni, ma c'era un'amica mia che ce l'ha avuto 21 anni ed è morto perché ci ha preso un tumore quando era grande. 21 anni ci aveva. E anche Pupi, quello di Mario. Adesso non lo so se è ancora vivo, ma ci aveva 21 anni. Sì, sì, i gatti durano molto di più di più. E i cani, ricordatelo, più sono piccoli e più durano. Quando sono di taglia grande durano di meno. E il mio cazzo, per così di piazzuto di chi sono cani. Cazzo, un cane da circo era, tutto guadagna. Questo non l'ho potuto addestrare perché purtroppo adesso non posso camminare, non posso fare nulla e non aggiungano a giocare, se no l'avrei addestrato. Qualcosina ce la fa, ma no, come dico, tutto guadagna. L'unica cosa che non mi faceva non mi prendeva la pallina perché l'avevo frustato col guinzaglio di pelle. No, proprio mi fa riporto, mi porta la pallina, fa seduto quando riesco a sedersi. Qualche cosa la fa anche il mio, non è che... Però non è addestrato tipo come gli agility dog. Io conosco una ragazza che so cane fa agility dog, mi ha fatto vedere i filmati, cazzo, devo vederlo come corre. Ed è un cane bastardino, è di quelli meticci. Ma tu devi vedere come corre, andate lì, passa dentro i tubi, salta, fa, cazzo, che bello. Ma io come ti posso, non ce la faccio a camminare, soffro di debito d'ossigeno, capito, no, non ce la faccio più. Ma le gambe mole ti senti? No, le gambe, come sforzo poco poco mi fanno male le gambe, deve essere circolazione già. Io c'ho un pezzo di cuore morto, da quando mi è venuto l'infarto. Però non ero così, mi sono aggravato, perché non ero così quando ne sono uscito dall'ospedale. Oh, già ce l'ha avuto 10 anni fa, mi l'infarto, non è che l'ho avuto adesso. Già lo so. Ma te lo ricordi che io sono entrato dentro in terapia intensiva? Cazzo che non facevo entrare nessuno, sono chiesto a diritto. E mi ha detto, chi è che l'ha autorizzata di entrare dentro? E l'ho chiesto al dottore, invece non era vero. Come ha saputo che avevo avuto l'infarto, sono chiesto direttamente senza chiedere niente a nessuno. Ehi, già lo so. Ehi, è che tu sei stato qui, tu hai chiesto cura di e poi che erano i figli. Poveracci, lì già lavoravano gli infermieri, poveracci. Io cazzo, in 30 anni che avevo fatto i servizi ambulanza, non pensavo che fosse così. E c'erano tantissimi infarti, e la malattia del secco. E mi ricordo che c'era anche un dottore ricoverato con te, no? E quello giovane che era... Quello faceva il lavoretto alla testa, il lavoretto che hanno fatto a me per l'infarto. Lui lo faceva alla testa che era radiologo. Me lo ricordo, comunque io mi ricordo anche che dopo che sei uscito all'ospedale eri un bel debole e ti lamenta perché non ce la facevi a camminare, infatti avevi fatto quella terapia che ti facevano fare come si chiama, la pilulante, queste cose qua, e per vedere, mettere sotto sforzo il cuore per vedere se quanto resisteva. E che mi attaccavano tutti quei fili, già lo so. Sì, ma non ero a livello che sono adesso. Adesso mi sarei dato un debito d'ossigeno pure. Boh, cosa vuoi ti dica? È un macello. Mi fanno male le gambe quando... Adesso sono un paio di giorni che non mi fanno male. Perché addirittura l'ho portato due volte a Cusco stamattina. Poi sono andato dal meccanico, ho camminato, sono andato a Piazzorto a prendermi la macchina. Andavo a aprire a Iana, ma quello del portiere apriva. E l'ho posteggiato avanti lì. Quindi sono andato subito dall'estrato per quello. Via. Lo so, invece a me mi si indeboliscono le gambe. Mentre lavoro mi si fanno molli, vivere questa fatica a lavorare, è un casino, una stanchezza enorme, è una stanchezza proprio allucinante. Non vedo l'ora di tornare a casa, a quanto faccio a mangiare e bucare, ma con i piatti mi lavo, dopo che mi alzo me li lavo. Ma quello è il diabete, mica. Quello è il diabete, mi diseggiano. Questa malattia barino va in una marasettina e poche bastarda. È una malattia vigliacca. Praticamente quello che non ti succede tanti anni ti succede in un giorno. Non so, è così. Purtroppo bisogna conviverci con le malattie e la carriera di vita. Lo so, ma adesso io penso che non riesco più neanche a lavorare. Non sono più come prima. Io me ne accorgo che prima non ero sentito del lavoro né di niente. Sì, perché dopo quel periodo di riabilitazione che hai fatto, poi eri tranquillo, ma ti eri ripreso bene. Infatti, ma va, ho a chi tocco sempre il remo, non lo so, però mi fanno male le gambe, mi viene il dolore perché è polpato. Cazzo! Reumatismi possono essere, io sono con tutta dolore, e c'ho reumatismi dagli sforzi che facevo, sono tutta dolore di dita, delle mani, non riesco più a stringere, non c'ho più forza, un casino. Ho tutto un dolore, ma la spalla mi fa, la spalla destra mi fa, adesso mi sono accorto anche una cosa, che non ci sento l'orecchio, infatti devo andare a farmi controllare. Perché stamattina stava squillando la sveglia, a parte vabbè che ieri è venuto male, dice che era dolore in casa, che era toccato il campanile, non intendivo. Va bene che era la radio, però non lo sentivo, e prima sentivo bene. E poi stamattina mi sono reso conto, ero con l'orecchio nel cuscino, e l'orecchio destro, che è quello che non sente, non sentiva nulla, poi mi sono girato dall'altra parte e ho sentito solo squillare il telefono, mi sono rimesso di nuovo come era prima e non lo sentivo più, il telefono si è più squillato, capito? E sicuramente c'è qualcosa anche all'orecchio destro. E infatti vedi, è un macello. Già non ci chiameranno. Ma se mi chiamano pure, andando a fare la visita, amici, vai. ma la sorte, non ci credo, sono increduli, cazzo, sono diffidenti. Mille domande, mille cose, si mette a cose, ma scusi, lì la pressione se la misura, detto, perché? Perché ce l'ha un po' altina, e quanto ce l'ha? 180. Forse dice perché è spaventato, perché qua è spaventato. No, non sono spaventato assolutamente, perché io quello che sto facendo è una cosa giusta, non è che sia che me la stia inventando. No, no, non dico quello, però magari uno è più agitato, maledetto e cose. Cata 180 c'è con la massima. Atto. Stai attento, già. Avanti, va! Poi, la vecchiaia è carogna. Io già non mi sento... Già sono un po' uno straccio fisicamente a questa età. pensa dopo. Una volta mia zia, quando era guardia medica, gli è capitato uno che aveva una pressione a 250, se non oltre. Caspita, ma è che è una cosa folle, mi. Ho già, folle. Rischia di, proprio rischiano di scoppiarti le vene nel cervello. E io sono andato con la pressione così. La minima era più quanto era massima a ricerchi. Più di 220 che pare il laggio. Infatti non mi voleva far andare manco a casa. Se non viene qua li chiamo i carabinieri, mi ha detto la dottoressa. E devo andare a casa a venire e poi vengo e mi ricopero. Infatti due giorni lì me ne hanno fatto di tutti i colori perché il medico mio non riusciva a abbassarmela questa pressione. Mi dava questa pastiglia, mi bastava per il momento, da Burumaghe da peggio di prima. Ma io l'allobio per dire, non la sto prendendo perché ha degli effetti collaterali che a me non piacciono. Ma per la pressione? E allora? Ma se l'hanno ordinata la devi pigliarmi già. E che effetti sono? E degli effetti speciali. Praticamente tu immagina che cosa può fare, rallenta il sangue e quindi non ti fa arrestare. Esattamente. Ma non puoi rischiare di crepare, no, farò pigliare. Al limite te la fai cambiare, boh. Devi regolarla, la pressione è pericolosa. Il cardiologo me l'ha detto, te gli hanno dato questa pastiglia, però non è il caso, lì è giovane, dice, questa pastiglia qua ti rallenta il flusso sanguigno, rallenta il flusso sanguigno, provoca questa cosa. E siccome te a me non mi piace questa storia qua, allora non la stavo più prendendo. Ma stai attento, misuratela sempre la pressione, perché se supera il tanto devi pigliarla la pastiglia, no? Cazzo, anche sul dottore, proprio in modo che non pigliava la pastiglia, era giusto l'infarto. Era dottore, no? Vabbè, a te non ci sono pastiglie che ci provocano queste cose, e sicuramente non ti danno più nulla, ma a me ancora mi interessa stare al di. Meglio morire felice trombando. E infatti, ma a me non me lo fa questo effetto che fa tante cose a lui, che dice che gli parli. Il dottore me l'ha detto che provocava questa cosa, quindi mi ha detto non è il caso che la prenda. Allora mi ha visto a me il dottor Bandiera, dopo che mi ha visto un altro dottore che si è morto, che mi aveva dato questa pastiglia, poi mi ha visto il dottor Bandiera e mi ha detto no, non è il caso che la prenda questa qua perché provoca questa cosa, e lì è abbastanza giù, non so se li conviene. E lui è stata una pressione alta, cosa vuoi che ti dica? Cosa ti ha dato per la pressione alta già, si può dire? Perché mamma usava... Cosa usava mamma? L'Opibon. No, un altro era quello, aspetta che glielo chiedo, che non mi viene il nome. Io prendo Triatec e l'Opibon prendevo. Ma l'ho preso per poco tempo, che metto questa cosa, ho abbandonato tutto. Gianni? Eh? Allora, mamma prendeva contro la pressione alta idroclorotiazide più torassemide e non era un diuretico, forse era associato al diuretico. Idroclorotiazide, che poi è il principio, avrà un nome il farmaco, no? Più torassemide. Torassemide invece è il nome di un farmaco. Sì, ma tutti questi per la pressione diminuiscono il flusso sanguigno. Ecco, la cosa lì funziona proprio con la pressione del sangue. Se tu lo diminuisci, non funziona più. Lo so. Devi fare come Berlusconi, con la pompetta. Ma chi è che l'ha detto questa sera della pompetta? Già è vero, con la pompetta ce l'ha sotto i testicoli, tra, così due pompati e via. Ma dai! E altro che ma dai! E se no, come faceva a farti a Belen e tutte le altre? Una bellezza ha fatto! E allora? Belen l'ha fatto anche un soffocco da sonda. Sì, gli hanno mandato il filmino su internet, ma era con la gatta, non con Berlusconi. Ma Berlusconi quando faceva le feste lì, uno o due ne sono passati, anche da me, tutto questo, non mi raccomando. punga punga punga punga. Vabbè, mi ha detto che pure da vicino invece a fare le ragazze, però poi lo denunciano, ci fanno da nessuno, vedi come so. Ragazza è nata, non è colpa di nessuno, no? Tutte le donne sono nate per fare quello lì. Oh già, io questa cosa l'ho vista in Grey's Anatomy. Praticamente a quest'uomo, però è roba brutta, ti mettono un impianto nel pisello, una specie di camera d'aria, tu sotto i testicoli hai una specie di pompetta, sì, una pompetta, e ti fa un'erezione meccanica perché gonfi questo innesto che ti mettono nel pisello di aria. È una... io avrei piuttosto appeso l'uccello al chiodo, ma non mi avrei fatto mai operazioni così invasive. Ma c'ha più di 80 anni Berlusconi, lo sa voi che cazzo Berlusconi ha dritti a 80 anni, manco un levacaggia se non rifai isso. Magari certo il Viagra. Ma che Viagra, ma 80 anni, a quello che funziona. Ehi, il nonno di Antonio una volta abbiamo concentrato, siamo tornati in campagna, ce la stava facendo con quella degli ulive, che aveva più 86 anni. E ma chi se era sano, vuol dire? Noi era come se Berlusconi fa pure un basemaker, non solo l'altro. Berlusconi è andato in America a farsi mettere il basemaker, non si è fidato, sa che lo basia neppure ai nostri. È una specie di cyborg Berlusconi, capito? Metà è artificiale. Che non è... Oh, basta lì. Mi ricordo che praticamente il nonno di Antonio, quando eravamo usciti vicino al cammino, ci raccontava le storie della guerra. Dice che tutti quanti bombardavano e lui trovando sotto il ponte con un'infermiera. E c'è Marumacu. Quindi era già capito, di quelli che era un volpino, capito? E una volta eravamo in campagna, c'era la pandemia, poi siamo stati a sera tardi e siamo andati a prenderci il tram a piedi, a Ripunti. A Sant'Orsola c'era una Ripunti. E praticamente il tram era già passato, allora siamo ritornati in campagna e prima il nonno cazzo è uscito fuori col fucile, chi va là? Cazzo, e poi che era pericoloso, un fucile va via in mano. E c'era lui con la tipa tutta mezzo denudata in camera e era, vabbè, no, siamo noi Antonio, siamo noi. E tu, vattene nell'altra casa che io sto facendo cosa qua. E c'è Marumacu, tu non lo Antonio, uno che conosciamo noi. 86 anni, ma è l'esame di Vassillo, 86. E poi Natalia era gobbo, no? Però la figlia la zappava sempre con la zappina. Tu lo vedevi inchinato e se quando tu bendemmiavi ti cadeva un acido in terra, lo raccoglievano. Questo è frutto del mio lavoro, non dovete perdere manco un accio, si cazzava, io era così. E chi sei da gobbo? Proprio a chi trattava la zappita, non hai compreso? Ma c'era bell'articolo, sì. Via. E se no lo ciucciava, via. Ci mettevamo davanti al cammino, io già ho una trattazzita a bagnarci il becco. Ma ci ho compreso. Chi si era neomenesani, morivano proprio di vecchiaia, cazzo. Beh, tu ci credi che si faceva le sigarette col trinciato, no? E praticamente gli è venuto il tumore ai polmoni a 96 anni. A te immaginare? Figurati. No, ma erano altri uomini. Erano altri uomini, erano più sani, mangiavano più sano. Non tutta la roba sofisticata che mangiamo noi. Un'altra vita hanno fatto, hanno sofferto un bel affame, ma chi su è dei anisani che non va via né carri, non finirà. Ma no, perché... perché lui c'aveva conigli, galline, c'aveva maiali, capito, in campagna, c'aveva tutto lì, le uova ce le aveva fresche perché aveva le galline, c'aveva maiali, c'aveva conigli, la mangiava la carne, eppure solo che magari adesso le carni di adesso non sono più sane come prima, ai maiali li dava gli avanzi, ma mangiava la gente, le lampava di bugi, aveva le capre, c'aveva, ce n'aveva di animali, c'aveva solo 70 di olivetto, fatti il conto. E infatti guarda, però erano più sani gli animali, aveva chissà cosa addosso di buono nei ragazzi già. Il mangiare che mangiamo noi non si può manco paragonare a quello che mangiavano prima loro. Noi, tu vino si lo fazia nietti, tutto eti fazia. Sì, quello sì, quello sì. C'aveva, mi ricordo, un vascone grande dove buttavi l'uva, fatto in cemento, e c'aveva praticamente una manovella che dovevi, tu ti dovevi mettere sopra questa pietra e girare la manovella per macinare l'uva. E poi si era modernizzato dopo tanto tempo, si era modernizzato per farla uscire, si era comprato il motore per far uscire il mostro e metterlo nelle buche, si era comprato un motore che lo travasava con un filtro che praticamente i raspi li separava dal liquido, no? Fatto staccato che una volta c'era una lumaca, aspetta che c'è la lumaca, no, ma niente, che quella fermenta non fa nulla, è tutto buono. Comunque, è disponibile un aggiornamento artificiale di giorni, che va per il blocco da parte del bar. Voce. Si sente Concetta in sottofondo. Perché Concetta c'ha l'MG60 in sovrappiglia. Ah, sì. Ma ce l'ha in gola lì, purtroppo. Tu pensa, cazzo, lei si mette a cantare in chiesa e si sente più del prete che c'ha il microfono, e lì senza microfono. Ma una volta è già, mamma mia. Vabbè, quando ce la canta una canzone. Voce rosse. Solo quelle di chiesa, saga. Vabbè. Lei è Cesarina. Allora, vai, si abbrigi, chissà, vabbè. Non fa nulla di male. Tutti si hanno i cuscini da lì. Allora, si abbrigi, No, sento, guarda che io... Che lei ha cantato con una cantante a Rio. E già lo so. Ma io non lo metto in dubbio che c'è una canterina. Allora ce la manda in questura a cantare. Davvero? E che dubbi ti sei mai di te, Natale? Sempre. Che faccio la pazienza, magari da ripetere. È venuto anche da poco. Cosa? È venuto anche da poco. E rompendo le scatole, sta, mamma mia, no? È che non è colpa sua. Non è colpa sua, non è. Perché non ragiona, è un sistema. E passa per un sciabino. Via, ti non la ciappe buca, tu mai va a dire che sei busciacca. Chi è? Quello che mi sto fa Natale. Quello del secondo piano, Mi conviene lasciarlo stare perché è mezzo delinquente, poi mi tocca spararlo, cazzo, no? Ma non è Pietro, no? Quello che lavava i pavimenti al policlinico, no? No, quello lavava, pulisce in terra le foglie e tutto. Lavora più quello che lo spazzino. Eia, lo vedo sempre lì, mi Pietro. Lo conosco da 90, non personalmente, ma di vista. Sempre in corso Trinità lo vedo, mi. Ma cosa fa adesso? Lavora o lo fa come volontario? Lo fa perché non sa cosa fare. Quello lì lavorava al policlinico con mia cognata in cucina, allora la mia ex cognata, la moglie di Mario. Lavoravano in cucina lì al policlinico. Deia, ma poi faceva le pulizie anche, almeno così mi avevano detto. Ma io lo vedevo sempre in camicia bianco che era in cucina lavorando, non lo so cosa facendo. Perché mia cognata, la mia ex cognata lavorava lì al policlinico. Lo conosco anche io. Tocchiamo la notte troppo il camadona di sopra. Perché bestemmioso era? Sì, bestemmiava un bel. Stava al parcheggio del policlinico pure, Natale, l'ho visto io qualche volta il parcheggio. Gianni. Mica ti ha chiamato Concetta, Gianni. Avanti. Gianni, allora a me mi chiama donna Concetta, lo fa sapere, ha tutto quel suo trinitato dove la voce più c'è. E chi è che ti chiama donna Concetta? Pietro, una volta abbiamo avuto una discussione, lui si credeva che io ero geloso. ma io stavo scherzando. Sì, ma Pietro, ma dicesse è normale, sì? No, avevo avuto un incidente, mi pare, era diventato usci. Il padrone del policlinico l'aveva investito. Ah. Oh già, ti volevo dire, ho sbagliato, non è la torasemide quella cosa. È un farmaco tutt'uno, si chiama telmisartan e idroclorotiazide. Telmisartan, capito? E lei usava questo. Oppure usava diuretici, mamma, per far scendere la pressione. Faceva molta plin plin. L'ho fatto anche io. Ma ti provocano delle infezioni, poi urinare, eccetera, eccetera. A furia di urinare. Ti provocano infezioni, anche se ti lavi ogni volta che urini, ti provocano infezioni. Io l'ho bloccato. Mi avevano dato IALDES, diabetologo, che praticamente ti faceva urinare, ti faceva dimagrire, ti purificava e in più ti abbassava la glicemia di brutto. Aveva tre cose, solo che ti faceva venire delle infezioni urinarie. Oh, vabbè, mamma ne usava un altro, ma non era per il diabete, perché mamma non è diabetica. Com'è che si chiamava? Ah, io la memoria mia mi sta abbandonando, è una cosa allucinante. Me li ricordavo tutti i farmaci. Ma vabbè, dai, non è importante, dai. Ma infatti, ma io ne uso anche un altro per la pressione, si chiama Triate, che devo prendere Triate che di mattina e lo bevo di sera. Ma adesso è un po' più giusta. Ma è tutta roba specifica per chi ha la tua patologia? No, è proprio per il cuore, è per abbassare... Siccome io soffrivo di ipertensione, e a volte, cazzo, mi coricavo che sentivo il cuore che mi batte fare l'orecchio, bum, bum, bum, bum, bum, a forte. Eia, guarda, io avevo invece la pressione tipo 130-90, 120-80, un po' la minima era leggermente alta. Invece adesso con il passare dei 20 anni di vita è cambiata, tendo ad avere pressione bassa. 110-70 oppure 100 e qualcosa e 60, un po' bassa. Infatti certe volte me lo sento che passa. Alta no. Diciamo che mi sento il cuore quando batte nel torace, no? Sento tum, tum. Certe volte quando vado a dormire soprattutto me ne accorgo un po', no? Mi domi? Il malanno mi? E lo starnuto? Pure io, ma poi me le hanno sostituite tutte. Io ne voglio di incaravi di basigli, figurati. Tu ne prendi 5, io ne prendo 9. Vabbè. Io prendo quella per il colesterolo, poi piglio secco a cor per la pressione, amlopidina una è il Forzar prendo e la cardiastina. Io lo prendo fenofibrato per il colesterolo, poi prendo la metformina, la prendo per il diabete, prendo la metformina e poi Aplatin, sempre per il colesterolo e questa roba qua, i vicini. In più faccio le insuline, sto facendo 35 di unità. Io adesso non me le ricordo, la mamma, 3 me le facevo io. Che ha detto? Tutto quanto, sì. Ho sentito qualcuno a sotto che ha detto forse qualcosa del genere. Si dovrebbe guardare lui. Beh, che ci abbia qualcosa di grave, non lo sa. Vabbè, purtroppo come avanza l'età è inevitabile pigliare qualcosa. Bene, vabbè, stiamo parlando di farmaci. A proposito di Gianni, cosa ti voglio dire? Questo è ex amico che era a scuola con me. Vabbè, di nome Marcello, non è quello che pensa che magari Claudio se l'ascolta. Lui pensa che la prima volta era tombato era 33 anni. Immagina quanto è iniziato tardi. Per non sfigurare, magari sarà stato ansioso, non lo so, per non fare brutta figura, si era preso il Cialis, la prima volta era saputo che ha trombato, e poi mi aveva telefonato, l'ho fatto, e ho detto, era anche ora, 33 anni di vita, a trombare, capito già, si è preso il Cialis per non fare brutta figura, io non ne ho mai avuto bisogno, io la prima trombata l'ho fatta di lusso, senza Cialis né niente. Ma magari l'hai fatta più giovane. Sì, ma non giovanissimo, 21 o 22, non mi ricordo, 21 forse. 21, prima ci ho anche provato ma non me l'hanno permesso le altre ragazze. Capito? Diceva quella di dopo sposati e io, dopo sposati, vai e ritirati. Eri l'occhio allora. E purtroppo era dei paesi, quelli dei paesi si volevano sempre sistemare, capito? Io manco io stavo pensando solo così, a farmi una storia, insomma. E va bene. E comunque sì, quello si è preso, però caspita, 33 anni, uno che prende, forse era l'emozione, non lo so. Però sì pure che un emozionato non riesca a fare. Dai, 33 anni è giovane. Chi ha 33 anni era un toro. Un toro da monta. Chiamano già il caso, che? Adesso iniziano presto, 14, anche 13. Mi pare che in Inghilterra una ragazzina di 11 anni è rimasta incinta, che aveva trombato col coetaneo di 11 anni. E io, ma come si fa? E poi rimanere pure incinta, quindi il responsabile lui e lei, vabbè che erano bambini, praticamente erano bambini, troppo da matti. E adesso bruciano le tappe, troppo. Bruciamo l'età in tutti i sensi, tra fumo, droghe, sesso, droghe e rock and roll, bruciamo troppo le tappe. Mamma mia, no, preferisco molto più come ero io. Capito? Non avevo fretta, io fretta non ne avevo, perché tanto poi... Adesso bruciamo le tappe, già a 20 anni sono dei... troppo, come si dice, troppo... hanno già esperienza, mi sono molto... Emancipati! No, nemmeno, come dire, consumati, è un termine del genere. Capito? Vabbè, dai. Sesso, droga, rock and roll, e alla fine manette. Lui Natalino era un boss, come no. E tu che ti hai iniziato la prima volta a salire, la prima vera, il primo vero rapporto completo? Tu pensa, io a 14 anni possedevo già la sala da bagno ed ero il più piccolo della grembia. Figurati, a chi l'altro erano tutti maggiorenni. Addirittura c'era un amico mio che ha messo una ragazza. A 13 anni ci aveva questa ragazza, tutto di Gianni, che era un vecchio umano di me. Faccia di quella prendessa. Pensa che adesso se uno una ha 13 anni, il partner non deve averne più di 3. Quindi se uno ne ha 13, lui o lei ne deve avere 16, pare. Non di più, se no è pedofilia. E prima si guarda a maestà. Vabbè, ma anche il periodo delle medie così, 14 anni, così qui. Prima diciamo che era tutto, non te lo posso dire qua, diciamo, roba manuale, no? Con le ragazze, oppure a bocca pompa. Carao, che si dice Masco? Chi è? Scusate la, come dire, la sincerità, ma non so come dirlo. Chi è? Buonasera, ciao Marco, ciao Rottalino, ciao anche Gianni. No, sono ascolto, sto facendo una cosa. Si chiama Karaoke o Fra? Karaoke. No, non bocca a tomba, Karaoke è più sincero, va? Ok, continuate, scusate, vi sto ascoltando, ma sono ascolto, va? Ciao Fra. Ciao Franco. Non lo sapevo che si dicesse karaoke, come dire, tenere il microfono in mano, vabbè. E invece l'unico vero rapporto vero e proprio è stato a 21 anni, ho cominciato tardi, ma francamente mi andava bene così. Meglio tardi che mai, va? Ma sicuramente c'è gente che a 40 anni è vergine, forse anche di più, lo sai. Adesso non voglio alludere a una mia parente, no? Ah, oddio! Ecco da Rasciaito, chissà che te l'ha avuto il PC. No, ma era tutto a livello di uscite, di baci, garantito da mamma, salvo imprevisti, non si sa, però ufficialmente così è. E purtroppo quelle ragazze, soprattutto quelle dei paesi, avevano tutto l'interesse a sistemarsi e a venirci a una salsa, ricapito? E io, non esiste proprio, non esiste, che me la metto in casa poi, così mia madre mi ammazza. Perché tua madre è gelosa di te? No, non gelosa, mi ha detto, quelle cose si vivono fuori di casa. Siccome aveva, adesso te lo dico, una di cremole, aveva fatto una specie di scenata, non voleva più tornare a casa sua, capito? Si voleva installare a casa, io gli ho detto no, qua non puoi stare, è dovuta venire la madre e il padre a prendersela, che non se ne voleva andare da casa mia, a parte che siamo anziani, andava con i genitori, la cacciavo io a cacciare le sedere. E cos'era? Di quelle tipo zecche? Sì, così era il primo ragazzo, quindi si è un po' illusa. No, la mamma è incazzata, dice, incazzata. Non lo fare più entrare. E mamma non è di quelle che piace che ti porti il ragazzo o la ragazza a mangiare a casa, capito? No, mamma ha detto, quelle cose vivitele fuori di casa. A meno che non sia una cosa veramente seria. Ma io cose serie già lo sa che non ne faccio, perché non avendo lavoro, non avendo situazione stabile, io non vado a fare niente di serio, capito? Ci mancherebbe che metto incinta una, non te ne vai. Io sono, da quel punto di vista, sono abbastanza responsabile, prendo tutte le protezioni e anche di più, diciamo. E due di nipponi invece di uno. Ho andata lì, dali la camara della toccata, ma che doppia. Ci avremmo la gente come carica prima. A Roma così sicuro. Guarda che senza scherzi, io in farmacia prendevo quelli blindati, quelli di spessore doppio. Al gommista dovevi andare, fra, al gommista. Ti mettevi la camera d'aria direttamente. E allora te la potevi vulcanizzare bene. camera d'aria, ma non di bicicletta, no, di camion. Ma per il gnocchetto vanno bene anche quelle di cose, biciclette da bambini. Sì, vabbè, dai. No, comunque assolutamente no. L'altra volta invece, a proposito, Pomponio, ci sei Pomponio, QTC per Pomponio? Vabbè, non c'è. Lui mi faceva dei discorsi, tipo anche l'altra volta ha fatto un discorso, ah, te ne prendi una, la metti incinta, c'è un bel modo di ragionare. Marco, adesso ci vai a comprarli tu per curti, poverino, lo sai che mi perseguitano le padrone delle cagne qua vicino. L'altro giorno c'era una cagna in calore, che non riusciva a tenerlo a te, se l'andava lì, mi tiravo, sapevo, una scuota, il doppio della via. Sì, è l'onfia la cosa, molto l'onfia, non basta una vita a conoscere il partner. E comunque io lo sai che essendo stato dal dentista due volte, anche il primo era Ventura, quindi si diceva non fosse molto pulito, avevo fatto il test dell'HIV, avevo avuto la faccia di andare a fare il test dell'HIV, perché sapevo che si poteva pigliare l'AIDS o l'epatite virale anche dal dentista, lo sai. Ma se usano attrezzi sterilizzati come fai a prendertelo? Tutti gli attrezzi che loro usano sono sterilizzati, Marco. Fatto sta che si dice, non so se qua in America, insomma, può darsi in qualche parte del mondo sia successo. E quindi io mi mettevo le paranoie. E quindi anche un'altra volta che ero stato da un altro dentista, io per sicurezza ero molto ipocondriaco all'epoca e avevo paura delle malattie, avevo fatto di nuovo il test HIV che ovviamente era negativo, quindi tutto a posto. Comunque io dal mio dentista vedo quando prende le attrezzi, li apre, c'è da sigillarti, li sterilizzano e li sigillano, li apre proprio, toglie il cielo fa che c'hanno, li toglie fuori con i guanti. Oh, qua lo dico, qua lo nego, a me sembrava di ricordare che quello faceva la puntura in bocca per l'anestetico, poi lo tuffava la siringa in questo vasetto di alcol. Cosa ne so io se ce la fa sterilizzare in tempo? Io adesso qui lo dico, qui lo nego, perché sono passati più di 30 anni e sono passati 35 anni adesso. Guarda, il fatto sta che ero molto ipocondriaco, lo sai, e sono arrivato a farmi quei test là. Poi sai, le ragazze, cosa ne so io se una, con chi è stata, cosa ha fatto, mica non è abbuffonatura mi. Sì, ma se tu usavi tutte le precauzioni, dice che ti mettevi la farmacia. Come facevi a prenderti la dieta? Adesso mi tocca comprarlo per culto, mi tocca, tira, manda Marco che lui è esperto su queste cose. Perché qua cazzo stanno minacciando che mi sparano se gli metto tutta la cagnetta. Stamattina Tyson c'era questa cagna in calore vicino a casa, cazzo, mi stava tirando le braccia, cazzo, mi stava facendo più a tenerlo, c'è la forza che c'ha. A tutti i costi si è voluto avvicinare, poi come si è avvicinato la padrona l'ha tirata perché gli stava saltando sotto. La forza della porra. Scusami, è forte, io capisco. Va già. Non è uno scherzo. Mantenere. Vabbè, ma no, è come se sai, è forte, come se qua. Scusate, ma quello solo che. Comunque già. Sì. Io, vabbè, prendevo le precauzioni, ma non c'è solo quell'atto lì. Adesso scendere in particolari, cioè non è che mi potevo mettere il profilattico sulla lingua, no? No? Ci siamo capiti. Vabbè, quello sì. Vabbè, diciamo che è tutta questione di fortuna, Marco. C'è stata quella lì, praticamente sapeva di avere l'AIDS e si è fatto non so quanti, no, un tipo era, c'aveva l'AIDS e si era fatto non so quanti tipi, l'aveva contagiato in tutto. Sì, lo so, perché certi, o certe, sapendo di essere malati, la vogliono far pagare al mondo e allora infettano più persone possibile. Beh, quelli io li avrei fucilati, li avrei messi al muro e fucilati. proprio per il danno che ha fatto a molte persone. Aspettate che un attimino, Capri 2, sei mi ascolti, sei bassissimo, Santiago 3, sei nel QRM con l'AI. Mi ascoltando ci sento più forte. Io ho il QRM a 8, quindi non l'ascolto assolutamente. No, no, ci ha fatto i contatti, è passato da 3 a 8, 9. No, io non lo sento bene. Vedrai che brucia tutto con i passaggi che fa. Aspetta, Capri 2, guarda che c'è il gravi, non sta toccando il PL, guarda che si è passato da 3 a 8, 9, c'hai qualche falso contatto forse, controlla bene, perché poi con i passaggi che fa Capri 2 rischia di bruciare tutto. Marino, dimmi, ti stai scandalizzando per i discorsi che stiamo facendo? E loro mi chiedono i particolari e io gli devo dire particolari. Fai bene. Ti raccomando, io l'unica cosa devo andare al commissario di Ferrari, proprio quello doppio, oppure farà la camera di autoclave che è raddoppiata come gonfiore, hai capito? Con quello lì sei tranquillo, sereno, anzi, anche di esse. Eia. Vabbè, comunque diciamo che quei profilattici grossi, no, servivano anche come effetto ritardante, perché l'uomo dura poco, diciamo, e quelli servivano anche come effetto ritardante, servivano a durare di più. Bene, Capri, è risolto? Tu dovevi prendere tipo al peperoncino, dovevi prendere. Sì, adesso sì, Santiago 8 e un quarto, 8 e un, tra 8 e 8 e mezzo. Gianna, si la metti in bocca, guai dopo. Te lo ricordi lo scherzo che la fatta a Capri, la di Fabiola. Santiago 4 sta arrivando, che ottava. Anche qua è così. Santiago 4, qua sei, anzi sei 3 e mezzo, nemmeno qua. Ehi, ha copiato Capri, arrivi più basso da loro, Santiago 4 è ottava, Santiago 4, 3 e mezzo 4 a dove è Gianni, vabbè qui è 8 e qualcosa, dai, 8 e un quarto, come dico io. E quindi se c'è un po' chi vatto va più che bene, ma prima eri proprio Santiago 3, eri in mezzo al QRM, era molto basso, sicuramente non stava toccando bene il PL o qualche spezzone, confermi? D'accordo Gianni, come l'hai fatto? Celeste? Sì, è più simile a quegli altri modelli, dai, va bene, buona cena se stai andando, caspita, non mi ero reso conto dell'ora, sono le 8:27 e anche oggi mi sono perso il telegiornale, vabbè pazienza, già c'è internet, riprendi Natalino. Sì, gatta, per forza, parlate di cose grasse e ci passa l'orario. Parlate, Marco che sta parlando di queste cose, io sono zitto, non sto dicendo niente, è lui che sta facendo tutto, si vuole sfogare, si sta dando i ricordi. Davvero mi ricordi? Adesso proprio non sono una giugana, sono molto demotivato. Sì, vabbè. Vai su Baduca e le truppe, vai. No, non mi piacciono proprio questi siti che vai proprio per quello. Deve essere casuale l'incontro. Deve essere una cosa naturale. Non come fa qualcuno che sistematicamente chatta con tutte, la prima che gliela dà, bene, poi avanti un'altra. Non mi piace così, Non mi piace così, dai. Non mi piacciono quei siti di cosa, di... Vabbè, hai capito. Sono siti di incontri, non è che è quello che pensi. Molta gente cerca l'amore, molta gente cerca l'amicizia, sono siti di incontri, non è... Poi in mezzo ci sarà sempre quella un po', diciamo, leggeria, ma... Non è che sia per forza come dici tu. Guarda, io dico una cosa che dicevo sempre a un amico, non sono ancora così disperato ad andare su quei siti. Sì, vabbè. Non è questa la disperazione, la questione è che se non hai trovato sì da adesso, almeno lì puoi avere un'occasione in più da. Sì, vabbè, no? No, ci sto sempre ben lontano, non mi interessa, mi acciompa. Adesso ho perso pure il dente incisivo, se sorrido si vede il nero, lo sai, e si è partito del tutto il dente. Prima si è spaccato in diagonale, pensa in diagonale, poi piano piano, sai, mangiando, si è sminuzzato sempre di più. Adesso sono senza l'incisivo destro, quindi ho bella... prima mi devo rifare il dente, poi posso ricominciare a sorridere alla gente. Sì, ti metti i titoli, ti metti la dentiera. Sì, ma mamma se lo voleva fare. Tanto lei c'ha un dente sì e dieci no. Se la voleva rifare. E le conviene farsela, così almeno c'ha, torna a avere tutti i denti, anche se sono artificiali. Ma il sorriso c'è sempre, poi quando sorridi si vedono tutti. Sì, lui da prepararsi di nascere, li mette quelli con i perdi, ci si fa l'impianto. Minimo che spendi sono 8.000, 9.000 euro. Se no sono anche 10, 12.000, dipende. No, no, già, lei vuole la dentiera come quella di nonna, la dentiera mobile. Mamma mia, quella è rigida, capito, col palato che dà fastidio, mamma mia. No, adesso stanno usando altri metodi, stanno usando i metodi con i perni, è un'altra cosa, c'è dei difficili, sembrano i turni, sembrano i turni. Sentari, tu cosa ne pensi di Banco? Ma io non sono riuscito mai a catturare nessun altro. No. vabbè. No, io pensavo invece che batticavi, che quella che avevi catturato l'avevi catturata lì. Proprio no, assolutamente. E poi già, io non è che sia una bella, non sia una gran bellezza mia mettere le mie foto lì, capito? C'ho il nasone e tutto il resto. Là, basta pagare, c'è tutto, eh? Vabbè, ma quella è prostituzione. Io sono fortemente contrario alla prostituzione, perché così si favorisce, diciamo, tutto il traffico di prostituzione. No, lo dai 20 euro, i soldi del gelato, lo dai, dai. No, io sono un'attiva, vedo, dopo il 30, anno nuovo devo lavorare. Ti chiamo e vieni con me, c'è lo storico che ti faccio vivere un pochettino, vai. Poche spiccioli, vieni, tanto per contentare. A me i soldi che fai comprarsi il pane, da e puoi anche dare, dai. Sì, e cosa sono, morte di fame? No, sono peggio. Come diceva Pomponio, mi dice ti faccio conoscere quelle brasiliane, sì, quelle prostitute, mi. Così davvero me la becco qualche malattia. Vabbè, non ne parliamo più di queste cose. Capito già, non è che sia una gran bellezza io per mettermi su Badu, quindi preferisco no, preferisco di no. Frate, ti trovi, ti vedi per Roma e ci fai carino direttamente, dai. Ma carino mi, mamma mia. Tu non mi hai visto verticale, c'ho il nasone, c'ho il naso storto, sono goffo, zoppo, stentato. Vabbè, ma queste non ci fanno caso, ho tu 20 euro, chiudo gli occhi e fanno cosa devo fare, capito? Mica guardo la bellezza, ci mancherebbe altro. Che fanno che c'hanno? E poi lui che si sottovaluta, io non capisco perché ti sottovaluti così. Guarda che fra, che la bellezza non ce l'ha nulla, basta uno sia simpatico, c'ha un po' di qualche cazzata, basta sparare qualche cazzata, se no, la donna si è contenta, l'hai capito? Va bene, ci penserò. Scusate, io riprendo, scusate se sono entrato sempre in mezzo ai corsi vostri, là. Ciao Fra, ciao Gianni, ciao Natalino e io chiudo. Ciao a tutti, riprendi Franco, ciao. Ciao, non è Franco ma è coso, è Marco Ratapignana. Ciao, ci sentiamo, dai, buona serata anche a te. Avanti Marco. Eia, ciao. Ma non mi viene il nome. A me mi chiama sempre Franco. Dai. Adesso non mi ricordo il suo di nome. Ui, già sono messo poco bene. Ciao Marco, dai, anche io ne confermo sempre. Marino, so che ciao, scusate. Riprendi Natalino, ciao. Marino, perché va bene. Eia, ciao Marino, dai. Vabbè Marco, non riprendi. Vabbè, fate girare, dai. Ma io Natalino, il Latin Lover, io. Ma cos'è Latin Lover? Sì, Natalino. Natalino, secondo me, ha l'arma segreta. L'arma segreta, ce l'hanno tutti quell'arma lì. Io subito, gliela metto in mano, vuol dire che gli piace, lo so questi. Cioè, se accetta, accetta subito. Ui, ui. Che discorsi sconci. E vabbè, comunque io quando... giusto che spieghi, no, tutte le cose, no? Vabbè, comunque sono contento di... E ti dirò che se una vuole fare tutto senza protezioni, prima mi deve far vedere il certificato, così come glielo faccio vedere io. Ah, come si usa in certi posti. Visto che mi scatta la mano. Ma guarda che tu sei proprio particolare, come fai crepare. Ma quando vai tu, a te ti capita una persona con cui si insieme, cosa ti capita al momento di fare cose? No, prima non mi certificata, se no niente. No, vabbè, però senza protezioni no, non esiste proprio, non esiste. Piuttosto rinuncio già. Rinuncio alla grande. Ah, io che sono un po' fissato, che tu capo, ma no, sempre ipocondria così. No, la verità, adesso sono molto meno ipocondriaco. Prima stavo facendo sempre analisi, come c'era un leggero dolorino. Adesso non me ne frega. Ci hanno messo i bucciani, buon viaggio. Mi dice che hanno voluto messo i bucciani. E io, vabbè, quello è il senso. Bene, bene. E guarda, comunque è l'onfia la cosa, poi non bastavano già le malattie venere, ci mancava pure l'HIV, quella roba lì, che è curabile adesso, e rispetto a prima non si muore, però sei bollato a vita, capito già. L'HIV già grivi a te. Io mi ricordo che una volta la mulata l'ho portato questo qui, mi ha detto ascolta, ne prendi le misure, il cazzo ci aveva detto occhio perché c'è l'AIDS, questo qui, il cazzo abbiamo preso con lenzuolo, in tutto l'abbiamo preso dal letto, con lenzuolo dell'ospedale l'abbiamo messo sopra al lettino nostro, alla lettiga. E questo qui mi ha detto, ma ne prendi le misure per che cosa? E così mi fai fare la bala, mi dai qualche cosa e mi ammazzi, perché tanto sto morendo. C'è l'AIDS, gli abbiamo detto. Cazzo, le te, ma non sono io. Dice, dammi qualche pastiglia così muoio, cazzo non ci penso più. Te, non sono io che devo decidere la vita tua. È Dio che deve decidere. E lui, vabbè, ma io voglio morire perché tanto non ci sta a fare nulla qua. Quanti anni fa era, più o meno? Guarda, io ero con la Croce Blu, da lì quanti anni possono essere? Ero con la Croce Blu, quando è successo c'era ancora l'ospedale malattie infettive in Piazza Fiume, non ti riguarda. Ma più di 10 anni fa, 20 anni fa può essere? Beh sì, perché io quando parlo delle cose sembra ieri, però poi mi giro indietro e mi rendo conto che sono passati anche 30 anni, 20 anni. Ah sì, beh, così. E forse 20 anni fa ancora non si curava bene come oggi. Adesso, bene o male, prendi terapie, non peggiori, rimani sempre stazionario, no? Però una volta che magari la gente lo sa, magari le ragazze non ci vengono più, non si fidano manco con le protezioni, capito? Ci mancava solo quella, come ho detto, non bastavano le malattie venere, per carità, guarda. Ma stanno andando con le prostitute? No, no, guarda che se lo sono beccato anche mogli, cioè i mariti andavano a prostitute senza protezioni e poi hanno contagiato le mogli o viceversa i mariti, e i mariti erano ignari e le mogli ignare di tutto, capito? Magari sono state male, vanno a fare il controllo e si trovano la sorpresa, te ne immagini? Ti ho detto, li avrei messi al muro quelli che contagiano, che se ne fregano, capito? Contagiano tutti, li avrei fucilati. Allora è successo a un ingegnere che è andato in Brasile, stava sempre piangendo, era l'infettivo, quando io sono andato per prendere un'altra persona e mi ha raccontato la storia, mi ha detto che lui è andato in Brasile a lavorare per lavoro, si è fidanzato con questa tipa brasiliana, una bella ragazza, tutto quanto, poi lui è dovuto ritornare qua perché aveva dei lavori qua, c'aveva anche dei lavori grossi. E quando quando è ritornato qua la tipa praticamente gli ha scritto che aveva l'AIDS e che magari l'aveva contagiato di farsi controllare, si è fatto controllare e c'aveva l'AIDS anche lui, sempre piangendo stava, io non ho mai fatto male a nessuno nella vita, questo è sempre bignetto. Lo so, capita così, mi capita così anche leggendo si dice che la prostituzione ci vogliano le protezioni d'obbligo ormai, magari te lo becchi più proprio con persone magari che credi di conoscere e invece poi trovi la sorpresa. Vabbè, non ne parliamo più, dai. Io penso che questi discorsi si possano affrontare parlando educatamente, però non dire, non usare parolacce e cose, parlando educatamente, poi affrontare tranquillamente. Non penso che siano discorsi di vita, non è che siano cose che stiamo parlando. Qui siamo già in un orario tranquillo, dai. Siamo in fascia protetta. No. Certo che tu se dici trombare invece che dire fare lavoro, oppure usi altre parole invece di dire rapporti orari, roba del genere, è più scurrile, è normale. Eia. Ehi, sono un po' diffidente io, dai. Vabbè. Scusate che sto mangiando. Una fiesta. Natalina, tu cosa ne pensi? Non si pronuncia Natalino. Natalino si deve essere eccitato. E mattacci tua. Lascia stare a Concetta. Concetta è in cucina che deve essere, sta facendo il piatto. Sto scherzando, non va. Ma no, te sei drumito, virulito. Oh, questo qui non si ne già più, adesso mi tocca portarlo a svegliarlo. Perché sennò magari pure. Io l'ho portato alle 6, stasera. Ah, di nuovo il cane devi portare. Io lo dovevo portare alle 8, ma non ci sono andata, perché voi siete ceramidusi. Mi è passata l'ora. E adesso fra un po' vado, dai. Lo porto 10 minuti. Faccio fare due pisciattini e via. Perché già l'ho portato tardi, no? Quindi deve ancora mangiare tutto quanto, mi sa che ho fatto, dobbiamo anche mangiare, che oggi proprio mi è passata la serata così, là. Mi ha fatto piacere perché quando mi passa così senza avere pensieri è più che bella. Infatti, mi sa che vado anch'io, mi sono 9 meno un quarto, mi guardo il giornale della TV e poi vediamo se c'è qualche film che si possa vedere, dai, qualche film bello. Ok Natalia, anche a te, ci sentiamo. Non ho avuto comunicazioni ulteriori, oggi ero libero, anche domani probabilmente sarò libero. Salve, per quando non mi sentite vuol dire che c'è un'invasione di campo qua, ok? Se voi veniamo a liberarti, chiamiamo le matricole. Seia, come la liberazione che fanno gli universitari. Ah, che bei tempi, mamma mia che bei tempi, quando... Mi ricordo che però certi universitari erano passati, mio compagno di scuola alle medie le avevano tirato un calcio nei testicoli. Cioè lui era piccolino, quelli grandi e grossi, capito? E vabbè, dovunque vai ce n'è comunque, dai. Vabbè Gianni, dai, buona serata, buona passeggiata col cane, ciao Natalino, ci sentiamo. E chiudo qua, dai, mi attacco alla TV, ok? Ciao Marco, ciao Natalino, ci sentiamo, buonanotte. Ciao a tutti, ciao le brutte. Tutto qui Natalino, ti sei sprecato. Va bene, ciao. Due parole concise. Natalino è un uomo di poche parole, lui parla poco ma agisce molto. Come dicevano in quel film di Fantozzi, no? Un uomo di classe non parla mai. Poi ieri sera me la stavo guardando le comiche, mi sono pisciato da due risate. È una volta che non lo vedevo. Ah, con Pozzetto e Villaggio, io. Qua io francamente il Villaggio un po' le ho le tasche piene, perché da quando è andato in cielo ce lo stanno propinando, non dico ogni sera, ma quasi ogni sera, i vari film. E purtroppo quelli Fantozzi erano belli, quelli vecchi, ma quando ho fatto quelli stupidi, gli ultimi, no, non mi piacciono più. E poi è stancato il personaggio di Fantuzzi, dai, poteva andare bene negli anni 70, ma ormai la come città è cambiata. A me mi ha deciso un po' le male da quando ha detto che i saldi ci facevamo le pecore, con la volta lì un po' me ne è farato, ma prima mi piace un bel... Ah, detto così, no no, i sardi invece si trombano le mogli dei genovesi, tipo Paolo Villaggio. E infatti in un programma è andato in sardo a controbattere, gli ha detto se aveva figlie buone, e non ci pensa a farmi altro che pecore. Ah, così ha detto. E beh, però è un cafone fare un'uscita del genere, boh. Vabbè, e un po' a me di persona come lo vedevo un po' così mi sembrava. Avevo letto anche un articolo sul giornale, era un po' stronzetto. Vabbè, non era molto simpatico, solo nei film era più simpatico. Va bene, dai, che chiudo, ciao ciao ciao. Ciao, bravo.